Tesi in attesa, teorie e tecniche di improvvisazione professionale, in collaborazione con il Master in Radiofonia dell'Università Yulm di Milano. I padri li hanno chiamati bamboccioni. L'Istat dice che la disoccupazione giovanile è in aumento, eppure gli studenti italiani lavorano, anche prima di laurearsi. Lavorano per mantenersi gli studi, per pagarsi le vacanze, i viaggi, soltanto per provare. Non sono lavori tradizionali, come vedremo, ma sono pur sempre lavori. C'è chi fa il giocoliere, il pupazzo umano, oppure il tester di videogame. Benvenuti alla prima puntata di Tesi in attesa, un programma di Radio 24 in collaborazione con gli studenti del Master in Radiofonia dell'Università Yulm di Milano. Per 9 puntate Tesi in attesa si occuperà di storie di studenti che lavorano e di ex studenti che in qualche modo ce l'hanno fatta. Iniziamo con la prima storia di oggi. Il primo ospite di oggi si può dire che conduca una sorta di doppia vita, oppure in alternativa che abbia una duplice identità. Non è uno schizofrenico, è più simile ad alcuni supereroi, come Batman o Superman. No, non combatte il crimine, non ha superpoteri, però indossa anche lui costumi sgargianti e voluminosi, e quando lavora ha delle piccole folle festanti che lo acclamano. Però ha anche una sorta di doppia vita, identità segreta, perché nessuno lo riconosce quando smette di lavorare, né gli chiede l'autografo. E infatti Filippo, 24 anni, studente di design al Politecnico di Milano, per mantenersi durante gli studi fa il pupazzo umano. Ma in che cosa consiste esattamente fare il pupazzo umano? Si tratta di fare la mascotte all'interno di o supermercati o degli eventi che vengono poi sponsorizzati, nella quale io appunto mi immedesimo nel fare il character, di conseguenza mi vesto e mi devo comportare come un gormito, come Pluto, come Minnie, come tanti personaggi. Vabbè, anche Minnie? Personalmente non mi è mai capitato, però Topolino sì. Com'è che hai iniziato questo lavoro? L'ho iniziato attraverso un amico che stranamente non ce la faceva più a fare questo lavoro. Io lo trovo molto divertente, alla fine si sta tra i bambini e si ride e si scherza. Quante ore ti prende? Prende esattamente i weekend, tutto il giorno. Infatti per chi è studente deve studiare tantissimo, magari non è l'ottimale. Dal punto di vista remunerativo direi che è ottimo, cioè vengo pagato più a fare questo tipo di lavoro che altri. Praticamente mi pagano per divertirmi. Ma diciamo così, crudo, quant'è che ti pagano allora? Sono esattamente 9 euro l'ora e io come professionista prendo 4-5. Ecco, dimmi degli altri tuoi lavori invece. Faccio l'illustratore di flyer per serate e il fotografo per serate e, smanettando con l'HTML, anche i siti per gruppi di DJ. Dal punto di vista invece del lavoro in sé, cioè è scomodo, cioè i costumi sono pesanti? I costumi sono mega pesanti, cioè esattamente fare la sauna per circa 20 minuti / 40 all'ora, però direi che poi è un fisico tonicissimo. Quindi serve anche per chi vuole farsi un fisico. Sì, sì, assolutamente. L'unica cosa è che effettivamente non vengono mai creati questi costumi apposta da chi poi se li deve mettere per ore. Quindi tu il costume non è che lo devi pagare, no, te? No, assolutamente. Tra l'altro il costume costa sulle 5.000 euro l'uno. Tu quanti personaggi hai indossato fino adesso? Una ventina. Quando hai cominciato questa attività? Ho iniziato 2 anni fa. La prima volta ti hai fatto una specie di corso di preparazione? Sì, c'era un piccolo training di circa un'ora nella quale tu sapevi che il character non deve parlare assolutamente, è solo mimica, bisogna ritornare ai bambini e capire come si muove il tuo personaggio. Dici che questo lavoro ti ha dato qualcosa? È proprio la valvola di sfogo del weekend. Ecco, ma logisticamente? Funziona così, devo passare in azienda, ritirare il furgone in questo caso, caricarlo e poi andare verso la meta. Questo lo fai tutti i weekend o...? Questo lo faccio su richiesta. Su richiesta, diciamo in una session di 2 mesi di fila ogni weekend. €5.000 per un vestito da pupazzo. E chi è lo stilista? Cos'è? Alta moda del travestimento? In ogni caso, per fare un lavoro del genere ci vuole una bella dose di disinvoltura. Ma passiamo adesso a tutt'altro tipo di capacità, come potrebbero essere quelle tecniche necessarie per dare vita ad un videogioco. Chi non ha mai pensato, mentre era alle prese con Tetris o Super Mario, per esempio, a come è nato quel gioco? C'è sicuramente moltissimo lavoro alle spalle, molti professionisti che si danno da fare per la grafica, i suoni, i dialoghi, e alla fine, un po' come succede per le automobili, c'è il collaudo. Proprio di questo si occupa Federico, studente di radiofonia a Siena e collaudatore di videogiochi. Lavoro alla Electronic Arts di Madrid, mi occupo del controllo di traduzione dei giochi prodotti da studi americani e canadesi per il pubblico italiano. Io provo il videogioco, controllo la traduzione e faccio in modo che, diciamo, l'italiano rispecchi l'inglese, sia ben tradotto. In poche parole, il collaudatore di videogiochi? Sì, in poche parole sì. E da quanto tempo svolgi questo lavoro? Dunque, dall'estate del 2007, io ero in Erasmus a Madrid, quindi ero ancora universitario. Cercavo disperatamente una maniera di rimanere a Madrid e anche il tirocinio per riuscire a ricevere gli ultimi crediti. Un caro amico mi ha mandato una mail con un link dicendo: guarda, a Madrid stanno cercando un tester. E quindi sì, nel 2007 ho mandato il curriculum e sono stato preso. È faticoso il lavoro del collaudatore di videogames? Beh, guarda, inizialmente è emozionante, inizialmente è un po' il lavoro che tutti un po' gli adolescenti vogliono fare, quindi sei entusiasmato. Poi dopo un po' inizia a diventare ripetitivo. Come funziona il meccanismo? Ah, il meccanismo è questo: noi lì a Madrid riceviamo una versione del gioco, una versione diciamo quasi finale, e lavoriamo in contemporanea con gli studi, quindi gli studi stanno sviluppando il gioco in tutti i sensi, quindi anche con la grafica, le meccaniche, e noi invece ci occupiamo di curare i testi per la nostra lingua specifica. Devi per forza utilizzare il gioco in maniera facilitata, ossia con la soluzione, i trucchi, oppure puoi usarlo come se fossi tu il consumatore finale? Puoi usarlo anche come consumatore finale, anzi spesso è raccomandabile riuscire a fare esattamente il percorso che farebbe il consumatore finale per riuscire a sviluppare, diciamo, il suo stesso percorso. Quindi magari, ecco, nel caso di sconfitta riuscire a sentire quel determinato messaggio, riuscire a mostrare quella situazione che altrimenti tu, se sei immortale oppure se puoi sempre vincere tutte le partite di calcio 4-0, non potresti vedere. È un lavoro redditizio il tuo? Prendo 1200 euro al mese, un po' di più, per 14 mensilità. Quante ore al giorno di lavoro? Sono 8 ore. La tua preparazione universitaria che ruolo ha giocato? È assurdo, un lavoro molto universitario, perché ci sono ad esempio dei momenti nel progetto in cui non si può fare le cose con calma, no? Come insomma durante gli esami ci sono dei momenti in cui puoi stare tranquillo e studiare poco, e poi improvvisamente arrivano le ultime due settimane di progetto e come quando arriva il momento degli esami devi essere pronto ad attivare il 200% del tuo cervello e del tuo corpo e andare fisso verso l'obiettivo. Ma davvero i videogiochi fanno così male? A quanto pare c'è qualcuno che dovrà ricredersi, perché alcuni ragazzi hanno fatto del gioco la loro scelta di vita economica. Per chi è una schiappa ai videogames, l'alternativa potrebbe essere vendere qualche libro. Magari quelli che rientrano nella categoria ricicloni, avete presente? Sì, l'arte di rifilare a qualcuno un regalo ricevuto e, diciamo, scartato in tutti i sensi. Piero Fichter probabilmente è un nome che non vi dirà molto, ma lui è uno dei soci fondatori del Libraccio, un punto di riferimento per la compravendita di libri usati e scontati. Ci troviamo con lui, siamo sui Navigli, nel centro di Milano, davanti al primo storico negozio del gruppo, per farci raccontare la storia di un lavoro creativo che è diventato un'attività di successo. Piero, come nasce il Libraccio? Nasce dalle esperienze nei mercatini politici, quindi negli anni 70 c'era a Milano la tradizione di fare dei mercatini caratterizzati dal colore, e c'era il mercatino del centro-destra e il mercatino della sinistra, direi senza centro. Ci siamo resi conto che la gente cercava i libri di scuola non solo nel periodo caldo, quindi nel mese di settembre, ma c'erano per vari motivi anche esigenze durante tutto l'anno, quindi c'era la necessità di avere un servizio che non veniva fatto da poche librerie anche allora, chiaramente solamente con i libri nuovi. Noi avevamo partorito questa idea di commercializzare il libro usato, e quello che era un giochettino da ragazzi politici è diventato lentamente un lavoro serio. Riuscivate a mantenervi all'inizio con questa vostra esperienza? No, ovviamente no. Il mercatino era divertentissimo, perché chiaramente eravamo centinaia di ragazzi e ragazze con grandi ideali, ha cominciato dopo 2 o 3 anni che l'attività era iniziata a mantenersi e a darci anche dei piccoli stipendi. La vostra impresa ha inciso sulla vostra carriera universitaria? Purtroppo sì, quasi tutti abbiamo interrotto gli studi. Io stesso, che ho fatto medicina, la facevo con una enorme passione, però sono arrivato al 6° anno, mi sono anche sposato, è nata una bimba e il lavoro ho sempre pensato, quando ho tempo poi mi faccio gli ultimi 5-6 esami, insomma riuscito a farli. Ad un certo punto è avvenuto il salto di qualità, in che modo è avvenuto? Si passa dall'artigianato, dalla buona volontà, ti rendi conto che a un certo punto sei diventato azienda perché non sei più un ragazzino, non stai facendo più una cosa di volontariato, quindi fai obbligatoriamente il salto di qualità. All'inizio della vostra esperienza come reagirono i vostri genitori? Ma favorevolmente, perché tenete presente che era una delle tante attività che facevamo, quindi tutti noi studiavamo, facevamo tutti l'università, vari tipi di facoltà, e avevamo i nostri lavorettini fuori, chi lezioni private, chi mi ricordo faceva lezioni di nuoto, quello che faceva il carrozziere, e ognuno aveva la propria attività con cui ci mantenevamo gli studi, quindi l'hanno vista tranquillamente, poi quando ha preso piede credo con soddisfazione. Avete avuto un qualche tipo di supporto economico, soprattutto all'inizio, oppure nel salto di qualità, oppure niente di tutto ciò? Niente di tutto ciò, devo dire che erano anche altri tempi. Quando si apriva un negozio si vendeva lo stesso 2 o 3 milioni, che detto oggi 1500 euro viene da ridere, ma allora 2 o 3 milioni erano 10 o 15 mensilità di un lavoratore medio. Abbiamo cominciato con i risparmi, i prestiti degli amici, e mi ricordo una banca a cui saremo riconoscenti per la vita, ci ha dato un fido di qualche milione di lire, che ci sembrava di toccare il cielo. Quali consigli può dare ad uno studente che voglia trasformare una sua intuizione in un'impresa di successo? Domanda difficilissima, anche perché in questi anni ne abbiamo fatte e viste tante. Forse una volta era più facile, meno costoso, anche se c'era più burocrazia. Oggi c'è meno burocrazia, ma in realtà è tutto difficile e assolutamente costoso. I ragazzi all'uscita di scuola vendevano libri. Sono le parole di una famosa canzone di Battisti che Piero Fichter sembra aver preso alla lettera, passando dalla vendita dei libri usati sui navigli fino alla creazione della catena Il Libraccio. La puntata di Tesi in Attesa finisce qui, dopo aver ascoltato le improvvisazioni professionali di oggi dedicate al pupazzo umano, al tester di videogame e l'intervista all'ex studente di medicina Piero Fichter, socio fondatore del Libraccio. Le interviste sono state realizzate da Tommaso Aimo, Emanuele Spennato, Matteo Capurro. Se siete curiosi di avere ulteriori informazioni sui mestieri insoliti della puntata di oggi, potete visitare il sito www.radio24.it sezione programmi. Tesi in Attesa vi auguro un buon pomeriggio e vi aspetta domenica prossima sempre alle 14. 2, 2, 4, 4.